Città ti dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Easy Pop Estate. Ah, più estate di così, oggi caldo, caldo, caldo anche per questa domenica. Ben ritrovati, domenica 21 luglio 2024, puntata numero 29. Stavo per invertire i numeri, di solito invertendo gli addendi il risultato non cambia, in questo caso cambiava e come. Allora, scusate queste elucubrazioni che non servono a nulla. Buon pomeriggio a voi, ben sintonizzati e ritrovati sui 103 e 100 in modulazione di frequenza. Chi vi parla è ovviamente Franco Paoletti, al di là del vetro è una miss proprio mare. Non dica nulla. Non dico nulla, effettivamente. Si taccia. Buon pomeriggio. C'è il nostro Bolognese Volante. Buon pomeriggio a lei. Sempre che brontola lei, va bene. Come va? Vedo molto molto caldo anche di là, al di là del vetro. Bene, allora, nuova puntata di musica indipendente che siamo andati a scovare, a cercare poi appunto dagli uffici stampa ciò che ci mandano. La nostra redazione severissima poi cosa fa? Seleziona e così propone quelli che sono così diciamo le proposte più curiose della settimana, e quindi ce n'è come. Oggi molte proposte italiane vedo, quindi vabbè, faremo del nostro meglio, e quindi inizierei con la prima proposta. Regia, cos'ha sul piatto numero 1? Allora, sul piatto numero 2. A due, questo sì, è il 2, questo per è me l'uno. Esatto, che sempre vabbè, invertendo gli addendi è sempre quello. Franci, pioggia sul cemento, che in questo momento la pioggia sul cemento mi fa pensare svapora, a un grandissimo caldo. Esatto, sì. Svapora immediatamente. Comunque, Franci, pioggia sul cemento è il pezzo che andiamo ad ascoltare. Fra poco vi parlo di lei. Ogni di pretese, progetti che scrivono le note delle tue insicurezze, sorrisi sbiaditi dei paragoni in cui entravi per non accettarti mai. Tutte le rose credi di essere solo spine, di soggi nella mente che ti portano al confine. Vivo nelle pareti di tutti i tuoi inferni, sto riscaldando questi maledetti inferni. Siamo due anime intrappolate dentro uno specchio, mentre guardiamo il nostro riflesso che si perde come pioggia sul cemento. Siamo come due pianeti vicini, niente ci separerà. Occhi che brillano di lacrime che scendono su tutto il viso. Attimi confusi il nostro legame, indelebile come le cicatrici che indossi. Invidia nei tuoi occhi, tu vivi nell'illusione che tutti siano perfetti. Tutte le rose credi di essere solo spine, ti soggi nella mente che ti portano al confine. Vivo nelle pareti di tutti i tuoi inferni, sto riscaldando questi maledetti inferni. Siamo due anime intrappolate dentro uno specchio, mentre guardiamo il nostro riflesso che si perde come pioggia sul cielo. Che dentro te c'è solo un senso di vuoto che cresce, e nei tuoi occhi si legge. Sono pronta a fare sbagli che portano via i giorni, i miei sorrisi, via le ore. Sono pronta ad accettare. Ecco qua, piatto numero due, come dicevamo, Frenchy, pioggia sul cemento qui a Easy Pop in questa domenica. Esattamente così. Molto calda. Molto molto calda. Noi invece abbiamo aperto il nostro programma con Frenchy, appunto, pioggia sul cemento. Lei è giovanissima, ha soli 16 anni, di Vibo Valentia. Mi sono sempre chiesto dove sia questa città. Credo che sia in Calabria. So che è al sud, ma precisamente non so ora dove. Ora controllo su Google Maps. Ecco. Allora, di Vibo Valentia, ma è praticamente giovanissima, ha già iniziato a suonare, ha iniziato praticamente a cantare da giovanissima, a 6 anni ha iniziato a suonare la chitarra e poi velocemente partecipa a vari concorsi musicali. È qua nella punta della regione della Calabria, vedi qua così. Ah sì, là vedo, in mezzo vedo. In una punta. Vedo. È parecchio passarci. Giù. È molto giù, sì. Sì. Allora da Vibo Valentia ci trasferiamo verso, non lo so dove, verso se il milanese o meno, perché dopo guarda il prestito, è interessante anche scoprire da dove appunto tutte queste voci, questi cantanti, cantautori provengono. Band provengono, ve lo saprò dire tra pochissimo. Intanto ascoltiamo l'indie pop cantautorato un po' con influenze Britpop dei Name è scritto, quindi io lo pronuncio all'italiano Name. Perché c'è una N, una A con questo accento particolare. Me come mi non lo so, sì, ma non c'è un accento, quindi non lo leggerei Name. Name con valigia. Nella mia valigia ho messo solo la giacca, una camicia stropicciata come un foglio di carta per venire da te. Non ho bisogno di niente. Il telefono suona tipo guerra mondiale. Se solo potessi vedere dai miei occhi con te. Non ho paura di niente. L'altro giorno ho espresso un desiderio, di quelli che se giuri devi farlo sul serio. Sai che penso a te, mi sei scoppiata dentro. Tu mi sei scoppiata dentro. Insieme a te vedo le luci dell'alba nuotare. E ora lasciami sognare questo battito al sapore di nuvole. Non chiedermi il perché, questa volta non esiste il finale. Mi sbagli il tempo, sa di un battito eterno che non si può dimenticare. Se inchiodo fisso, sei nel mio disco. Tu che sorridi come non avevo mai visto. La fiamma dell'atleta, una cometa. Un orizzonte senza nuvole. Lo sai che non resisto e grazie a te se esisto. Guardarti e poi baciarti, giuro che impazzisco. A letto sembri seta, sei la mia metà. E non mi importa cosa succederà perché insieme a te vedo le luci dell'alba nuotare. E ora lasciami sognare questo battito al sapore di nuvole. Non chiedermi perché questa volta non esiste il finale. Mi sbagli il tempo, sai di un battito eterno che non si può dimenticare, che non si può dimenticare, che non si può dimenticare. Insieme a te vedo le luci dell'alba nuotare. Noi qui vediamo del caldo invece e abbiamo in Amè con la loro valigia e un brano estivo che ben si adatta alla puntata di Easy Pop estate, appunto. Qual è? Dico bene, Poletti? Sì, certo, è così. Allora, Name in realtà è un cantautore di Catanzaro, ha 34 anni, e la sua passione per la musica è praticamente esplosa sin da piccino, e lo stesso ama raccontare, parlare della vita vera, insomma, della quotidianità. Il suo è un pop indie, no? È risente niente, infatti, di questa influenza Britpop, anche un po', oserei dire, reggeggianti, con questa voce molto passionale. E che dire, come sempre, se sono rose fioriranno. Ma ve l'ho già detto, non è più stagione di rose, casomai oleandri. Oleandri, va bene, mettiamo gli oleandri. A questo punto, invece, ascoltiamo invece i PDC, cioè è l'acronimo di Poetica da Combattimento, per questo ex duo che si è poi trasformato in una band. Sono in, diciamo, sul campo dal 2019, hanno le idee chiare e questo è il suo Vendo e Compro. Vendo anima seminuova al miglior offerente, vendo vita ammaccata, vendo tasto dolente, vendo ultimo brandello di utopia, vendo acro di terra, non mia, vendo sogno in condivisione, vendo distillato d'amicizia ad alta gradazione, vendo parenti a scatola chiusa, vendo ferita, lacero contusa, vendo accordo di canzone, vendo bussola per naufragi, vendo strada senza uscita, vendo risalita, vendo cavallo zoppo, vendo ricordo confuso, vendo rancore indirizzato male, vendo pioggia d'estate, vendo albero non di Natale, vendo storia finita male, vendo istinto animale, vendo occhiali per guardare il futuro, vendo parola ingiusta, vendo pensiero impuro, vendo ombrello bucato per ripararsi dai guai, vendo in 74 capitoli la parola mai. Compro gioia, anche usata, compro giornata fortunata, compro confini divelti. Poi Paoletti spiega in separata sede, mi spiegherà perché la sua redazione ha scelto questo brano, che mi risulta un po' strano. No, invece assolutamente non è strano, sono tra i componenti di Poetica da Combattimento. In realtà loro hanno iniziato con un album dal titolo Life, primo lavoro in studio, un percorso di ricerca che si sviluppava intorno alla musica rock e la spoken word, sonorità noise e poesia, con l'obiettivo ovviamente di liberare la parola da qualunque tentazione retorica e quindi non fare i soliti i soliti brani pop, diciamo, e quindi allontanarsi da questa formula. E ci sono riusciti, sembra, con il nuovo lavoro, appunto, che si intitola proprio così, Vendo e Compro, e con altre selezioni musicali. Tra l'altro sono sotto contratto con la Universal Group, loro sono molto teatrali e, come va di moda adesso, insomma, questi one man show in cui si parla e si racconta molto. One man molto. Show, bella questa parola, Paoletti. Si parla e si racconta, si lanciano emozioni, a noi hanno emozionato e quindi, insomma, perché no, un nuovo modo di fare ricerca musicale, ci sono piaciuti molto. Questo è solo il singolo di presentazione, ma davvero l'album è molto particolare, va analizzato, vissuto e ascoltato, soprattutto non in due minuti, insomma, come l'FM ci propone solitamente, ma insomma va un po' meditato, come i cantautori del resto. E a questo punto voltiamo pagina e abbiamo ancora della musica di genere pop a presentarcela. È una ragazza di 21 anni, di Latina, se non sbaglio per lei è il primo singolo appunto di debutto, per Simona Carella con Lampo. Sai, io parlo troppo, ma con me non ti stanchi. Ok, dai, ma levami le mani dai fianchi e mi voglio schiantare. Spengo il cellulare, che ho già troppe cazzate da guardare, pensieri da scrollare, tequila da scolare, ma vediamo se a farci male. Oh, aspetti che sarò andata virale. Veloce come i miei capelli al vento su una Lambo. Di notte, la notte. Prima mi vedi e poi mi senti come fossi un lampo. Di notte, la notte. Lasciami ancora qua. Che me ne vado se soltanto per un bacio stampo. Di notte, stanotte. È solo luna e mi ritrovo dentro Luna Park. Dietro ti porto fino alle stars. E siamo soli e non ci trova neanche Google Maps. Mordimi forte come l'ultimo pezzo di Mars. Stringimi forte come i lacci delle All-Stars. Che poi mi fanno male. Stare con me è come un temporale che non ti aspetti e che non puoi schivare. Veloci come i miei capelli al vento suona Lambo. Simona Carella, Lampo, un bel motivetto proprio stile easy pop estivo. Lo dedico a tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento, come Riccardo da Palermo, che trascorrono questa domenica estiva per vari motivi, i più svariati, a casa. Beh, va bene, c'è chi è al lavoro, chi a casa, chi magari chi ci andrà al lavoro dopo, chi ci va più tardi, insomma, chi si sta preparando. Poi magari anche chi è in spiaggia, chi è in montagna. Noi salutiamo tutti e tutte. Esattamente, 333-180-94-94 per i vostri short message. Siamo qui fino alle ore 16 e parliamo invece di Simona Carella, appunto, come dicevo, giovanissima di Latina, già messa sotto contratto con la Virgin Records, il che non è poco. Stanno praticamente focalizzando questo nuovo personaggio, che ha al suo attivo appunto due singoli andati molto bene, tra l'altro specialmente sui social, quindi mi sto riferendo a Spotify, e va molto bene. Oh, e, l'ha detto bene oggi, complimenti. Stavo leggendo lì, quindi mi sono proprio concentrato, ci ha messo proprio dell'impegno per dire Spotify. Ma anche trovate questa cantautrice su TikTok, stavo per dire TikTok invece un'altra cosa, e su Facebook, nonché su Instagram. Detto ciò, voltiamo pagina. Chi abbiamo, regia? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Piatto numero 2, non l'Orlando Furioso, ma bensì l'Arnaldo Furioso. Che battutaccia, con Amore Quantico. Ascoltiamolo. Facciamo partire. Qui les sépare. La courbe di probabilità dei tuoi glutei contempla l'eventualità di deluderci. Prova un modello che spieghi noi, prova con le AI, ma lo sai, che lo so, che lo sai, e lo so, che lo sai, che lo so. Questo amore quantico è tutto, non è niente, ma contemporaneamente diversamente identico, spietato come l'alba, che è sempre uguale, sempre un'altra. Tu e tutt'altra. Amici, tirami su le domeniche, ma noi seguiamo leggi un po' più subatomiche. so che lo sai, e lo so che lo sai, che lo so. Questo amore quantico è tutto, non è niente, ma contemporaneamente diversamente identico, svietato come l'alba, che è sempre uguale, sempre un'altra. Amore quantico che ci è venuto, che ci viene proposto da Arnaldo Furioso. Nel frattempo Berrettini, sì, ha vinto il torneo svizzero di Kstad. Ah, complimenti, quindi ce l'ha fatta. Sono dopo la bellissima vittoria sul numero uno del tabellone lì in quel torneo, Tsitsipas, nome quasi impronunciabile, il greco Tsitsipas. Berrettini ha vinto. Bene, questa è l'Italia migliore che ci piace, insomma, l'Italia tennistica di cui sono un acerrimo tifoso. Ci piace raccontare proprio questo dell'Italia. Synth graffianti, grooved out beat, una misteriosa voce femminile francese, chitarre elettriche, elementi orchestrali per questo elettropop così ipnotico, vero? Eclettico. Molto ipnotico. Che cioè, rimane in testa per l'estate, penso che vada bene. Per un artista curioso al suo debutto, che dire, già molto visionario dal mio punto di vista. Allora, a questo punto, regia, cosa facciamo? Passiamo alla prossima. Certamente. Sì. Mi dica. Piatto numero uno, Geremia, Io, te e le stelle, che va sempre bene d'estate, sempre buone le stelle d'estate. Voglio che tu guardi ma come tutti guardano te. Ho perso il tempo, ho perso il senso, adesso ognuno per sé. Ti aspetto sotto casa al freddo in una sera d'inverno. Ti giuro che ho toccato il fondo e non te l'ho mai detto. Lui sta vita, Dio, però non è come me. Ti ho vista che piangevi piena di insicurezze. Se guardiamo le stelle questa notte è per sempre. Ma siamo io e te, e no, noi non siamo niente. Giuro non ti resisto, i tuoi vestiti sul letto lo facciamo per terra. La mia vita è una merda, ma la tua neanche scherza. Non sai non farmi male, ma sai farti mancare. Baby, sai che non resisto a quegli occhi da stronza. E stasera neanche a farla apposta. Siamo solo io e te le stelle, io e te le stelle. Baby, sai che non resisto a quegli occhi da stronza. E stasera neanche a farla apposta. Siamo solo io e te le stelle, io e te le stelle. Casa mia mi sembra vuota senza te e non vedo niente in giro tranne che pezzi di te. Ti sguardi il reggiseno sul mio letto per dispetto. Ti avrei guardata ore senza trovarti un difetto. So che con lui stai meglio ma non è come me. E non si mette lo smalto e non collassa per terra. So che ti corre dietro e che non è come sembra. Ha avuto il coraggio di dire a me persona di merda. E lo sai che non resisto a quegli occhi da stronza. E stasera neanche a farla apposta. Siamo solo io e te le stelle, io e te le stelle. Baby, sai che non resisto a quegli occhi da stronza. Geremia, Io, te e le stelle in questo finale di prima parte di Easy Pop. Ah, già finita? Non ancora, abbiamo ancora un brano, forse due, adesso vediamo. Allora, Geremia, che è un progetto, così come dire, dall'anima punk, manifesto così di una generazione, perché insomma vogliono un po' così rompere con le convenzioni, ma non ci riescono in questo caso, perché comunque è una bella ballad pop, no? Come siamo abituati ad ascoltare noi italiani. È una pop graffiante, sì, perché insomma anche il linguaggio sembrava un po' come dire sopra le righe, però ci piace perché linguaggio così moderno. Paoletti, lei è vintage. Esatto, forse è un uomo dell'Ottocento, lei vintage, però ci piace. Non vede che sono costretto a darle del lei nel 2024? Esattamente così, ma lei continua a darmi del lei per forza, ovvio. Allora, la foto tra l'altro del ragazzuotto in questione. Ragazzuotto? Ragazzuotto, dico così. Ah, adesso insomma, c'è un neologismo, ragazzuotto. Ma così, insomma, del ragazzino che c'è. No, ragazzuotto insomma, mi piace di più. Insomma, fa molto James Dean, andatelo a cercare, insomma, sui social. Beh, quella pettinatura lì. Ma non solo, insomma, qui con la cicca però. in bocca. Si dice ancora cicca? Sì, con la cicca in bocca, sì, sì. Così, con questa, sì, con questa magliettina. Così, però andiamo avanti, Paoletti, perché... Da scoprire, insomma, sono sicuro che piacerà alle ragazze. Piacerà, sicuramente. Bene, a questo punto abbiamo l'ultimo brano in, esatto, così, in programmazione scaletta, per la nostra scaletta, la prima parte. Cosa abbiamo, regia? OB con Top Model. Faccio partire il brano, poi mi taccio. Ricambio solo se le tipe son fighe. Ma giuro lo sempre, OB baby, almeno sette vite. Come ti senti? Dimmi un po' te che poi sei sola, torni da me. Mi girano intorno come nel Far West. Se rimani in tre, le prendo tutte e tre. Top Model dentro il back, stalkerò nel mio Insta. Mi sembra Breaking Bad, questa scena già vista. Poi ti chiedi il perché, e lei torna sempre qui. Ti chiamo Mademoiselle, ma ricorda se la vi. Oh my God, cosa vuoi? Mica tu fai parte di noi. Mia bella signorina, prendi tutto quello che vuoi. Casa al mare, porto d'acqua, spingono bene. Vorrebbe entrare, lei che entro tu resti a vedere. Top Model dentro il back, stalkerano il mio Insta. Mi sembra Breaking Bad, questa scena già ho vista. Poi ti chiedi il perché, lei torna sempre qui. Ti chiamo Mademoiselle, ma ricorda se la vi. Ricordo quando non mi facevano entrare. Cavalli lasciano la provincia. Guarda bene sta faccia, la vedrai su ogni rivista. Il suo smalto bianco sulle mani è una conquista. La police arriva, fa in fretta. Top Model dentro il back, stalkerano il mio Insta. Mi sembra Breaking Bad, questa scena già ho vista. Poi ti chiedi il perché, lei torna sempre qui. Ti chiamo Mademoiselle, ma ricorda se la vi. Beh, travolgente questo brano, che dura anche poco, intorno ai 2 minuti e qualcosa, infatti sta sfumando. Ebbene, lo standard medio del, così, delle hit commerciali, ci è piaciuta molto perché insomma ha questo sapore estivo. Trascinante, sicuramente. È vero. Lui si chiama Osama Belhaqui, è in arte appunto OB, un po' una sorta di nuovo Mahmood, viene da Gioia Tauro e poi scrive canzoni da poco. Ha iniziato a cantare per scherzo, ma... avendo studiato canto in passato, così per passare il tempo, devo dire che ci ha messo del suo e i risultati insomma si stanno vedendo, perché il terzo, un brano accattivante, esatto, sta dando risultati positivi per sorpresa per lui. Ha finito? Sorpresa per lei, Paoletti, piatto numero uno, sorpresa. Sì, vadi. I pensieri nella testa di una giustizia eterna, condannata nel processo alle intenzioni. Metti in conto che non succeda, metti in conto che non accada. È possibile, è una probabilità. Forse non è stato scritto. Nessuno Beh, tratto dal suo ultimo nuovo lavoro, abbiamo ascoltato il terzo estratto, Ci sta, di Fabrizio Tavernelli, Paoletti? Sì, ricordo che l'album si intitola Resa incondizionata. Incondizionata. Esattamente, così, nuovo singolo. Lui dice, dichiaro la mia resa incondizionata alla psico-polizia, alle armi, alle guerre, ai poveri del pianeta, alle guerre per procura. Che dire, caro Fabrizio, perché arrendersi finché c'è vita, appunto... Bisogna stare lì sulle barricate. Invece adesso c'è Paoletti. Ah, piccolo break pubblicitario. Rientriamo veramente fra pochissimo. Quindi non andate via. Sempre sui 103 e 100 modulazione di frequenza. Radio Città Fujiko. Non andate via. Scusi, può portarmi una birra? Scusi, me ne può portare un'altra? Scusi ancora, mi porta una birra diversa? Sembrano tutte uguali. Le birre del tuo locale non hanno carattere. Cambia e scegli Lab, libera arte della birra distribuzione. Da oltre 10 anni al servizio di chi ama servire buona birra artigianale. Impianti Spina, consulenza, pronta consegna dei nostri prodotti, inoltre eventi, degustazioni e formazione del personale. E potrai scegliere tra oltre 400 birre, tutte artigianali e indipendenti. Dai più valore al tuo locale con Libera Arte della Birra e lasciati condurre dai nostri beer sommelier. Per info, seguici sui social. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Easy Pop Estate. Ed eccoci qua, rientriamo fra pochissimo, anzi no, siamo rientrati appunto in quello che è la seconda parte. Il caldo parte. Gioca brutti scherzi. Esatto, sì, chiedo alla regia poi di là di portarmi dell'acqua, grazie che ho terminato perché oggi non si sta qua in studio, grazie. Allora, dicevamo, più che la regia era la redazione, questo è sottinteso, vede che prendo lucciole per lanterne, regie per redazioni, fiaschi, eccetera, e potrei andare avanti, eccetera, eccetera, e potrei andare avanti. No, non, no, vado, non avanti. Vado avanti. Allora, diciamo, seconda parte. Partiamo di a razzo. Zipap, partiamo a razzo con una debuttante. Si chiama Asia. Ci presenta Rodeo direttamente nel mondo musicale. Entra lei con questo singolo. Lei che ha debuttato nel 2023 a X Factor Italia e poi accedendo appunto ai live nella squadra di Fedez. Finalmente ha pronto questo singolo e noi ce l'ascoltiamo. E come si intitola? Beh, si intitola Rodeo. Amateur girls and couple sono in tasca, the best in the rodeo, Italia sta il Prada, the best in the rap, dentro fuori strada, the best in the game, tu chiamami mamma, Houston mi chiama, in testa c'è una taglia, tripla XL con me la mia maglia, caccia le streghe, mi ha messa sul rogo, urlo Valencia, caccendo una Malboro. Riding in the rodeo, I got my blood in the moon play. Riding in the rodeo, I do it in my way. Riding in the rodeo, what I'm getting paid. Riding in the rodeo, I wanna rap games. Povero plebeo, West Side Story, doing it for the glory. Tra una decina d'anni voi ancora pre-story. Lengo dalla provincia, bop con la pelliccia. In the sky, Georgie, tutti prima lista. Got a pity for a man with no bar respect. I'm an even the rap, but I'm made in my slot. Not hood man, but I know street smell. No woman, no man, the best on the map. Guanto di Thanos, al potere in mano. Straight from Chicago, flow americano. I deserve it, I would win a Grammy. Dreams come true, if you really wanna catch it. I make a scream my name while I'm riding in as what do you do? Ah, Asia e la sua Rodeo. Rodeo, ci ha scritto Riccardo da Palermo, dove ci dice che lei, Paoletti, ha una voce vintage. Vintage. Sì, ha una voce vintage. Lo prendo vintage per complimento, diciamo. Lo prendo come così vuole. Lo prendo, esatto. Allora, lei, Asia, praticamente era nel team, se non sbaglio, di Fedez. Ha avuto questa opportunità di mettersi in gioco in questo talent, ma del resto i giovani una volta, appunto come racconto spesso, avevano delle platee, avevano, diciamo, dei festival, delle possibilità. Adesso è rimasta solo una delle piazze è questa di X Factor, dove si è messa in luce i talent show che, che noi appunto vediamo con grande ingordigia. Allora, vedrà lei, io non li guardo. Anche lei, no, dica la verità, insomma, guardi che le cresce. Giuro che io non li guardo. Allora, distribuzione Sony Music l'ha messa sotto contratto per una manciata di singoli, come sempre, speriamo ci pigli appunto giusto. Complimenti a lei, perché questo singolo a me è piaciuto, questo modo di così di rappare, di cantare, è un po' particolare, ricorda anche un po' Mahmood agli inizi. Complimenti ad Asia, noi voltiamo pagina. Adesso si balla, Paoletti, finalmente un brano estivo. Ecco, annunci pure. Ah, Silvana Marani, Voglio ballare. Ci siamo sempre piaciuti, non è arrivato il momento, i nostri sguardi si stanno chiamando e ci sentiamo vivi, ne voglio sempre di più, e può essere che voglio ballare con te, voglio sentirti vicino, bello quando stai con me, voglio ballare con te, voglio ballare con te, questo è più forte di me, giurami che non mi perdi, non lasciarmi più. Voglio ballare, voglio ballare, dall'alba fino al tramonto, guardarti senza paura, sogno di portarti in giro nella mia testa, solo pensieri di noi, dentro quel mare tempesta, ascolto una musica forte, voglia di festa, voglio sentirti ancora qui con me, baby, magari un'altra notte, tra qua solo un cocktail, poi a mezzanotte, ma ti richiamerò sempre, voglio essere il tuo destino, ma tu cosa mi fai, cosa mi fai? Voglio ballare con te, voglio sentirti vicino, bello quando stai con me, voglio ballare con te, voglio ballare con te, questo è più forte di me, giurami che non mi perdi più, tu non lasciarmi più. Voglio ballare, voglio ballare con te, voglio sentire il respiro, sempre da soli e te, voglio ballare con te, voglio ballare con te, voglio sentirti vicino, bello quando stai con me, voglio ballare con te. Brava Silvana Marani, ottima scelta della redazione musicale qui di Easy Pop, un brano appunto molto estivo. Sì, molto estivo, dal titolo Voglio ballare, due singoli al suo attivo, Dubai e appunto Mare, e queste appunto le intenzioni di così di questa cantautrice Silvana Marani, che ha 25 anni, e che dire, che anche per lei insomma se appunto saprà diciamo trovare l'indirizzo giusto, perché no, potrà avere sviluppi interessanti. Esattamente, noi la così la supervisioneremo volentieri. A questo punto, regia, velocemente la terza selezione musicale, cosa abbiamo? Riel con la sua Cielo di spine, piatto numero 2. Credimi, non riesco a vedere la fine, anche se amarti è saltare in un campo di mine. Corri e non ci pensi, bruci tutti i sensi, ma tu credimi, cielo di spine. E non ci credo, più ti guardo più l'anelo. È come un velo che ti copre leggermente, nebbia ogni senso. Più ci penso, più è intenso, più mi strappa dentro il petto. Più ti penso nel mio letto, ah, più distruggi le tracce di buon senso. Credimi, non riesco a vedere la fine. Anche se amarti è saltare in un campo di mine. Corri e non ci pensi, bruci tutti i sensi. Ma tu credimi, sto volando in un cielo di... Qui la notte sa di sale un'altra volta. Se nel cuore hai mai lasciato una rivolta. Un ricordo che mi strozza piano piano, sulle labbra cicatrice parte strano. Come l'aria che hai lasciato tocca ancora il fiato. Credimi, non riesco a vedere la fine. Anche se amarti è saltare in un campo di mine. Ci pensi, bruci tutti i sensi, ma tu credimi, sto volando in un cielo di spine. Riel, cielo di spine, Paoletti, finisce così. Sì, è incurioso, di origini italo-venezuele, Riel sta tentando di imporsi sulla scena musicale urban italiana attraverso appunto la propria musica e i suoi progetti. Questo è il suo nuovo singolo, ne ha una manciata al suo attivo, però ha anche delle partecipazioni davvero interessanti su Rai 2, Rai Play, che lo ha adottato, se così vogliamo dire, con altre apparizioni su TV e insomma, e soprattutto ha una grande popolarità su Spotify e non solo, sui social, dove Instagram appunto la va per la maggiore, perché insomma forse perché è un bel ragazzo stile Mahmood, quindi alle ragazze suggeriamo di andare a così a curiosare Riel, quindi con Cielo di Spine, il suo nuovo singolo. Poi tra l'altro è in tour in Italia, quindi nei vari punti appunto cercate bene bene bene, cercate le sue, così, dove sono le sue apparizioni. A questo punto, regia, velocemente, cosa abbiamo? Abbiamo La Nobile A featuring Barbara Catera con Libellule Armate. Dopo Paoletti ce ne parla. Non riconosco più casa, polvere dentro la stanza. Figlia mia, dove sei stata? Credava mia mamma. Mi stringe e mi porta lontana. Fuori da qua, fuori città, sotto la pioggia di Satana. Mare sei senza pareti, cielo se a pezzi lo vedi. Mine che sfiorano i vetri, padri non sono sinceri. Se mi vedrai piangere, portami via. Ma non portarmi via, non portarmi via. L'aveva portato nubici rito a terra oscuro, avere avanti in un futuro senza una madre, fallo sognare, fallo giocare, lascialo stare, lascialo stare, lascialo stare, lascialo stare. L'amore, l'amore, l'amore, l'amore. La nobile A featuring Barbara Catera, Libellule Armate. Immagino che la Barbara Catera fosse quella signora che ho sentito prima fare oh! Esattamente, una cantante lirica famosissima. Credo, eh. Arrivano da praticamente Catania o giù di lì, insomma, siciliane. La nobile A praticamente ha al suo attivo ben due album e questo sembra sia l'album giusto per lei. E, c'è da dire che per lei questo brano è stato firmato da Lorenzo Vizzini, già autore di Mr. Rain, di Emma, di Renato Zero, di Ornella Vanoni, eccetera, e che la stessa nobile A ha già aperto dei tour soprattutto di JX, poi di Fedez e poi di Joe Squillo, e quindi insomma l'abbiamo anche vista in televisione in alcuni programmi televisivi, nonché ha praticamente il singolo Fidati di te è stato praticamente il così la colonna sonora della campagna Disturbi alimentari, insomma la campagna contro appunto i disturbi alimentari che è stata fatta insomma un po' di tempo fa. Complimenti. Bene. Complimenti veramente, perché è un brano molto curioso, direttamente questo progetto dalla Sicilia. Devo dire che insomma quando arte lirica si unisce col pop, questo è il risultato. Qui invece siamo alla sì. quasi finale della puntata numero 29 di questa domenica 21 luglio di Easy Pop, che ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto è musica indipendente al 100%, è una selezione di brani musicali operata della redazione dell'aldilà, dello studio dell'aldilà, mi scusi. Paoletti ovunque. Operata dalla redazione del signore che al di là dello studio, appunto Paoletti, sono tutti brani di autori emergenti, ai più sconosciuti, inclusi noi, direi. No, andiamo a pizzicare le novità, ma poi insomma ci sono anche dei ritorni di appunto artisti e poi soprattutto di artisti che poi diventeranno famosi. Spesso però sono nuovi. Mr. Rain è un esempio, noi l'abbiamo tanto suonato. Sì, ma di Mr. Rain ne abbiamo pochi, ahimè, per loro, mi dispiace. Bene, insomma, noi facciamo del nostro meglio, certo, per promuovere certa musica per che non va per scoprirli. Tutta questa musica poi nei network non va, e quindi questo è un handicap non da poco per questi giovani che vogliono appunto fare appunto musica, e tante volte questi artisti li trovate praticamente nei musical. Ma suoniamo la musica, Tori. A questo punto, regia, cosa abbiamo sul piatto numero 5? Frontera, che ci propone quinta. Moonlight Marea. Ah, fa rima con Frontera. Allora ascoltiamoli, di Frontera. Sulle mie labbra un tattoo, il tuo nome che non va via. Io lo vorrei urlare, solo in mezzo al mare in apnea. Sorridere fa paura, se poi non vuoi smettere, chiamami. Ti verrà a prendere col fiato rotto, il vento addosso, parlo di te. Ti stringo così forte a me, il cuore vibra e poi lo sento esplodere. Noi balleremo insieme fuori fino a che saremo solo noi, soli tra le mare. Questa notte sotto la moonlight, il fuoco su di noi, non smetteremo mai. Tra il fumo e luce al neon battito instabile, saremo solo noi, soli tra le mare. Ti cerco in ogni angolo in questa città. Sono schiavo di un corpo chiuso in trappola. In mare aperto io quasi annego. Ma sono conto che io sento il cielo. Se ti stringo così forte a me, il cuore vibra e poi lo sento esplodere. Noi balleremo insieme fuori fino a che saremo solo noi, soli tra le mare. Notte sotto la moonlight, il fuoco su di noi, non smetteremo mai. Tra il fumo e luce al neon battito instabile, saremo solo noi, soli tra le mare. Nel buio di questo club, io voglio ballare con te. Interessante anche questo brano propostoci dai Frontera, Moonlight Marea. Io devo correggere, la Frontera non è un gruppo, ma è un artista che si chiama Andrea Frontera, classe 98, cantautore, è messo sotto contratto con l'Aurora Dischi, quindi che non è poco, distribuzione della Universal Music. Quindi devo solo rendere singolare il pronome. Esatto, se arriva l'Aurora Dischi, io dico, insomma, ha fatto un bel po' di gavetta e quindi, insomma, ha messo sotto contratto dall'Aurora Dischi. E se sono le Andri, fioreranno. Insomma, no, qua fioriscono e come. Allora, Frontera, questo è il nome di questo cantautore che definisce la sua musica glam pop. Inizia a scrivere i testi fin da giovanissimo, qualcuno praticamente lo ha osservato e lo vuole lanciare, di più non diciamo, però insomma sta lavorando molto molto bene. Questo Moonlight Marea appunto è la conferma che sta lavorando bene. Allora, che dire, regia? Niente, siamo quasi al termine di questa puntata. Cosa abbiamo sul prossimo? Quale artista abbiamo? Abbiamo Pasquale Aprile con la sua Mornings. Anche lì dopo ce ne parla Paoletti, si prepari. Welcome by the bright, oh, nosy smiles. That's Boomadari, the barons of wine. Eyes on music, food, or purity. I build it with, oh, that's for me. I want to feel my soul. Raffinato questo brano proposto da Pasquale Aprile, Mornings, lo metterei nelle Sophisticated Music. Ma è lui, ma è certamente lui, è il nuovo singolo per Pasquale Aprile, lo conosciamo soprattutto perché è un prolifico autore e polistrumentista, anzi lui suona soprattutto nei dischi degli altri per quanto riguarda il sax, ma in questo caso si è fatto accompagnare da grandi artisti per questo singolo che rende molto molto bene. Cantautore partenopeo di grande talento, ha già inciso insomma sia per sé sia per altri, e questo singolo è la conferma, insomma il suo brano dell'estate, devo dire che brano, si sente proprio così, possiamo dire la stoffa, regia, proprio per bacco, cavolo, insomma non sapevo cantasse anche una voce molto importante, insomma ricorda anche un po' Mario Biondi, vero? Sì, un pochino, un po' così. Non è proprio questo, come lui, così. Allora, nuovo singolo per appunto Pasquale Aprile, direi di andare con regia. Adesso la faccio partire. Con che cosa? Chi è? Dopo lo dice. I groove into the beat. The fever's getting high, can't you feel the heat? Beh, una melodia che già ben conosciamo, molto. Ricordo che qualche anno fa si ballava questa Pinocchio, questa invece è Super Pinocchio, e è arrivato e non è una bugia, perché qui c'è praticamente Melody Castellari che canta in sottofondo all'interno di questa celeberrima mood, no? Musica, che si ricorda tutti di Pinocchio, esatto, vero? Ecco. Sì. In discoteca si ballerà proprio questa, quindi altra cover, rivisitazione, e quando insomma si gioca sulla nostalgia, insomma, si vince quasi sempre, vero? Come difficile questa sbagliare. Ripescata in questi sì. giorni. Sì, sì, sì, sì. Di una ricerca personale, ma anche di una ricerca della sua redazione musicale, questo brano vintage del 1980 della Peter Jacques Band, che era un complesso, una band famosissima in quegli anni, qui si sentono ancora il sound degli anni 70 con la loro Is It It, uno scioglilingua in inglese. È tutto partito da una donna per amico, e questo refrain ricordava molto, no? Un po', da, da, da, da, sì, ecco, un po', esatto, sì. Parte da lì per poi arrivare alla Peter Jacques Band, che è, insomma, che hanno ciuffato il refrain a Lucio Battisti? No, non lo so, però li abbiamo sempre confusi. No, li abbiamo sempre confuse. Mi piacerebbe fare un mashup, come si dice, no? Mescolare i due brani insieme e vedere cosa ne viene fuori. Guardi, non so cosa possa uscire, va bene, ma noi dobbiamo chiudere perché sono le ore 16. Sì, è già l'ora di andare, andare. Io ringrazio voi per l'ascolto prestato fino adesso. Continuate sempre sui 103 e 100 modulazione di frequenza. Che dire, che ci risentiamo fra 7 giorni, ovviamente. Easy Pop non vi lascia e vi tiene compagnia in quest'estate 2024 con della musica per rinfrescarla quest'estate. Assolutamente sì, quindi orecchio all'apparecchio, 103 e 100 modulazione di frequenza, e poi ci sono i social. Esatto, i social e il sito della radio, che vi invitiamo caldamente a consultare al www.radiocittafugico.it. Detto ciò, Franco Poletti si congeda, vi rimanda ovviamente fra 7 giorni. Idem il Bolognese Volante, bye bye. Bye bye e a domenica prossima. A domenica prossima vi lasciamo le note della Peter Jack Band, allora Is It It. Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da da da.